30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Oltre 4 miliardi di telefoni cellulari attivi sul nostro pianeta e solo quest'anno ne saranno venduti più di un miliardo. Il boom della comunicazione portatile non ha limiti. Nuovi dispositivi entrano in campo e tutti vogliono maggiore connettività. Procede la conquista delle zone più remote, si moltiplicano i dispositivi che permettono ai cellulari di raggiungere anche le zone prive di elettricità. Qualche giorno fa a Nairobi il colosso finlandese della telefonia mobile ha presentato un kit da bicicletta che attraverso una classica dinamo collegata a un portacellulare permette di caricare il dispositivo senza dipendere da fonti fisse di energia elettrica. Buonasera e bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera ci prendiamo qualche minuto per parlare di cellulari con Nino Troisch, un manager scrittore che ha appena pubblicato con De Agostini un thriller dal titolo Il coniglio bianco. Jan è il suo protagonista, in parte involontario, di una spy story tecnologica che si sviluppa attraverso grandi piazze internazionali, muovendosi da Monaco di Baviera a Shanghai via Bangalore, la Silicon Valley indiana. Al centro il grande mercato della telefonia mobile e alcuni pesanti interrogativi sull'impatto sanitario di apparecchi che ormai fanno parte integrante della nostra vita. Io sono manager di una multinazionale internazionale che si occupa di telefoni cellulari con un background professionale strettamente finanziario. E un po' per gioco, un po' per passione, ho iniziato 5 anni fa a scrivere un libro su un tema che ruota intorno al mondo della comunicazione, che è, ed è un tema molto presente anche su internet. Se uno oggi digita le parole salute cellulari, escono 7 milioni di pagine web solo in italiano che hanno discusso di questo tema. E quindi mi sono immaginato uno scenario che purtroppo sembra essere plausibile, di cosa potrebbe succedere con un certo uso del cellulare. Quindi un libro che è incentrato sul cellulare, è comunque un thriller, ma che lascia molte domande e molte riflessioni al lettore per conoscere un po' meglio forse un mezzo che oggi si usa con molta disinvoltura, ma che qualche ombra ancora la lascia su dei possibili effetti di lungo termine. Ovviamente la legislazione di oggi ci dice che il telefono non fa assolutamente male, non c'è nessuna normativa che limita l'utilizzo né per quanto si considera quante ore si sta al telefono o neanche fasce di età, quindi è un mezzo per tutti senza problemi. La realtà invece accademica, se si leggono le ricerche che sono state pubblicate fino ad oggi, lasciano più di un dubbio. Tengo anche a precisare che un po' per casualità, quando stavamo per finire il libro che è stato l'inizio di quest'anno, in Italia è uscita una sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia che ha condannato un ente per risarcire una persona che si è malata di tumore perché stava troppe ore al cellulare. E la sentenza fa riferimento a una ricerca di 2 ricercatori svedesi, una ricerca tra l'altro una delle minori fatte in quel corso di questi anni, quindi una sentenza da un lato sorprendente, dall'altro che però rinforza un pochino il fatto che c'è un po' di confusione forse in questo mondo sull'utilizzo. Fino a qualche anno fa il problema del cosiddetto elettrosmog causato dai telefoni cellulari, naturalmente, ma anche da altri dispositivi wireless in genere, occupava pagine intere dei giornali. Il dibattito tra apocalittici e integrati era acceso, fa male, non fa male. Insomma, la conclusione era ed è ancora oggi che nulla è stato dimostrato. In tempi più recenti comunque gli animi si sono placati, molti hanno scelto la strada dell'attesa che naturalmente si lega a quella della ricerca. D'altra parte, nel frattempo, sono cambiati anche i consumi in termini di diffusione dello strumento ovviamente, ma anche in termini di continuità di impiego. E allora, come mai un manager come Nino Troisch ha deciso di affrontare proprio ora questo aspetto legato ai cellulari? Ma poi, proprio perché per lavoro mi sono confrontato con una delle prime ricerche uscite, credo di essere stato uno dei pochi che l'ha letta interamente perché era enorme, e mi ha lasciato abbastanza perplesso. Ora, ripeto, non sono uno scienziato, e il libro rimane un thriller, non è un saggio, però sa, credo che tutti noi ci confrontiamo oggi con un'evoluzione tecnologica che corre come non mai. Le faccio un esempio: la televisione, per raggiungere 50 milioni di utenti, ci ha messo 38 anni, la radio, per raggiungere lo stesso numero, ce ne ha messi più o meno 14, il PC ce ne ha messi 4 e il telefono cellulare ce ne ha messo meno di 1. Quindi io credo che la ricerca, se una volta validava e poi si entrava nel mercato, oggi è più in una situazione spesso di correre dietro alla tecnologia per validarla e non viceversa, che forse lascia un quesito, ma non solo per questo settore ma anche quello medico, quando è corretto in mettere nel mercato qualcosa di nuovo. Cioè, poi bisogna anche considerare che l'utilizzo è cambiato in maniera radicale. Ci sono due elementi, credo, che aumentano la complessità per chi deve studiare l'argomento. La prima, come ha detto giustamente lei, è che la tecnologia va avanti molto velocemente. L'altro è l'uso del consumatore, perché guardi, se uno legge le varie ricerche che sono state fatte, si cerca di dimostrare sempre un effetto di lungo termine. Un effetto di breve termine non esiste praticamente, e quindi è un effetto cumulativo sui 10-15 anni. Nel 2000, se uno, oggi siamo nel 2010, se uno dovesse fare una ricerca, come sono successe le ricerche che escono oggi, sono partite nel 2000. Nel 2000 il modo di consumare era completamente diverso, le tariffe erano molto più care, si stava al telefono molto di meno, si stava attenti a quello che costava, anzi il mezzo era visto come un attenzione, se faccio una cosa sbagliata mi arriva una bolletta enorme. Oggi, con tariffe flat, io vivo negli Stati Uniti, dove forse sono più sviluppate che altrove, si vede proprio persone ormai che stanno al telefono per ore e ore nella giornata, perché non cambia certamente il costo per l'utente. Insomma, una trasformazione radicale in corso e anche nei contenuti. Parliamo dell'elemento del grande business, perché il Coniglio Bianco racconta una storia che si muove di fatto attraverso piazze che sono le grandi piazze degli affari internazionali, da Monaco di Baviera all'India, dove si svolge una parte importante del racconto, a Shanghai, quindi. E lì c'è, diciamo, un po' l'elemento della paura, l'elemento in cui noi italiani, devo dire, in genere siamo molto bravi nel immaginare una parte del tutto nascosta ai consumatori, cioè una ricerca che dice qualcosa di, appunto, di sconvolgente e di scandaloso, che scatena una serie di fatti, diciamo si entra totalmente nel thrilling. Insomma, gli interessi sono enormi della telefonia. Ci può aiutare a fissarli? Sì, è un settore, sì, senz'altro. Beh, è un settore, come lei prima ha notato, che ha saltato alcune generazioni tecnologiche, soprattutto in zone come India, Cina e Africa, dove si è passati direttamente dal telefono fisso al telefono cellulare, perché è un'infrastruttura, diciamo, più semplice da costruire e quindi con rendite migliori. Il business oggi è enorme, interessa, diciamo, non solo gli operatori ovviamente di telefonia, che più o meno il loro fatturato nel mondo ammonta a circa 1.000 miliardi di euro all'anno, e poi ci sono i produttori di cellulari, che sono circa 100 miliardi di euro all'anno. E poi sa tutto l'indotto, insomma, la componentistica, poi c'è bisogno di molta comunicazione, è un settore sicuramente forse uno dei principali investitori in marketing e in comunicazione, quindi ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di persone che ci lavorano nel mondo. Insomma, un business enorme, un business che abbiamo detto è anche molto radicato al di fuori, abbiamo citato Shanghai, ma anche molto lontano dalle capitali finanziarie. Proprio in questi giorni, per esempio, si parla di un caricatore a pedali che è rivolto al mondo rurale africano. Insomma, credo che ormai ci siano veramente pochi angoli del mondo rimasti al di fuori della penetrazione dei telefonini. Sì, è difficile trovare, diciamo, zone che non abbiano una copertura. Ci sono ancora dei paesi, ma con trovate come quella che lei ha menzionato, si cerca ovviamente di rendere lo strumento usabile da tutti. Faccio presente che in India i postini, nelle zone più remote, hanno un cellulare da offrire, diciamo, dove portano la posta. Nel caso si vuole telefonare, si può usare il cellulare. È un servizio che ha avuto molto successo. Quindi ha una penetrazione enorme. In Italia siamo sicuramente praticamente sopra il 100%, perché ci sono più di una persona che hanno più di un contratto, e quindi la statistica dice che non è che ogni italiano ha un cellulare, ogni italiano ha addirittura più di un cellulare, più di una linea. Faccio vedere, in Italia nel 2008 gli italiani sono stati 97 miliardi di minuti al telefono, che sono tradotti 184 mila anni, quindi è un numero senz'altro rilevante. Minuti in cronaca. Usare con prudenza, si fa per dire, ricorrendo quantomeno ad accorgimenti che non costano niente, quindi più SMS, più auricolare, quando possibile magari utilizzare una linea fissa, anche se a volte ormai il problema è anche trovarla. Spegnere il cellulare tutte le volte che non è necessario, sia in funzione e così via. Insomma, le raccomandazioni ormai sono note, molte le associazioni, in particolare negli Stati Uniti, che da tempo si occupano del problema. Alcune sentenze anche italiane recenti che modificano la percezione appunto dell'uso dello strumento cellulare, ma insomma ancora un quadro assolutamente da mettere a fuoco. Per farlo, almeno per la nostra piccola parte, chiediamo aiuto a Roberto Passini, che a Trieste si occupa di misurazioni delle emissioni per una società che opera all'interno proprio dell'Università di Trieste. Si parla di onde elettromagnetiche. Sono onde, anche dette comunemente onde radio, che per queste apparecchiature in particolare sono proprio necessarie per il loro funzionamento, perché il telefono cellulare manda e riceve i segnali proprio sfruttando le onde radio. E quindi contribuisce a creare il cosiddetto elettrosmog. Esatto, l'inquinamento elettromagnetico. A questo contribuiscono sia emettitori che anche i ponti radio, i trasmettitori radiotelevisivi e così, che usano le onde radio proprio per il loro funzionamento, e in alcuni casi, specie in certe aziende, in certi tipi di lavorazioni, anche apparecchiature che invece non avrebbero necessità di trasmettere nulla, però emettono grosse quantità di disturbi. Naturalmente noi siamo molto attenti in questi ultimi anni all'impatto che possono avere i cellulari. Sono con noi praticamente tutto il giorno, per alcuni di noi addirittura non ne basta uno, ma ce ne sono due o tre. Sono anche ormai diffusi sempre di più tra i ragazzi, tra i giovani, addirittura i bambini. Ecco, a questo punto la questione sulla sicurezza. Lei, attraverso anche l'azienda, la SICOM di Trieste, ha avuto occasione di testare diversi di questi apparati e credo ci possa facilmente dire innanzitutto che non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali in termini di emissioni verso il corpo umano, diciamo. Nel tempo sono stati trovati degli accorgimenti per ridurre l'emissione verso il corpo umano. In realtà il passo più grande è avvenuto un po' di anni fa, dopodiché la situazione direi si è un po' stabilizzata. Il passaggio con cui in generale i telefoni cellulari hanno ridotto un po' le loro emissioni verso l'uomo è stato quando sono cambiate le antenne. Forse molti ricordano i cellulari di parecchi anni fa, che avevano gli antennini a stilo estraibili, o poi hanno avuto degli antennini corti che comunque sporgevano ancora dal telefono. Quando poi invece le antenne non le abbiamo più viste, perché erano inglobate proprio nel corpo principale del telefono, ed è stato un cambiamento che ha la caratteristica di emettere la radiazione onda verso la parte posteriore del telefono e non verso la testa. Questo in alcuni casi è arrivato a ridurre anche ad un terzo la quantità di onda assorbita dalla testa. ma nella sua esperienza le è mai capitato, come dire, di assistere al divieto dell'utilizzo di un cellulare? Diciamo che quando si fanno le verifiche l'esito delle misure non è mai noto a priori, per questo vengono fatte. Ci è capitato, assistendo dei nostri clienti in fase di progettazione o così, prima dell'immissione del prodotto sul mercato, che il prodotto fosse non idoneo ad andare sul mercato. In questo caso i progettisti l'hanno poi modificato e adattato. Certo è che se arrivano sul mercato nostro dei prodotti che non sono stati adeguatamente verificati, qualcuno potrebbe anche così essere un po' fuori da quanto previsto dagli standard. Io penso sempre che sia molto importante in questo senso che ci sia una forte attività di controllo sul mercato, il controllo a cui tutti gli stati membri europei sono chiamati, ma che solo così nell'ultimo anno o due anni hanno cominciato un po' ad incrementarli e a farne un pochino, ecco. Naturalmente emissioni elettromagnetiche non significa solo cellulari. Adesso, per esempio, tendiamo a vivere in ambienti sempre più connessi e quindi parliamo di Wi-Fi. Allora, il Wi-Fi ha una questione sua particolare. In sé, come standard, nella sua applicazione europea, non è particolarmente dannoso per la salute, perché è previsto che i prodotti abbiano una potenza abbastanza limitata, 10 milliwatt, 100 milliwatt come potenza trasmessa, che sono potenze modeste. Il fatto è che col Wi-Fi noi condividiamo la connessione a internet, allora qualche volta ci potrebbe venire voglia di far connettere ad internet anche la persona che sta al piano di sopra o al piano di sotto rispetto a noi o nella casa di fronte. Questo naturalmente richiede più potenza. Questo richiede più potenza e riusciamo a trovare sul mercato, non nei negozi tipicamente, però magari entrano attraverso sistemi di commercio elettronico. Sulla rete stessa, dunque. eBay o così, e si riescono a trovare con abbastanza facilità degli amplificatori da 1 watt, da 10 watt, da potenze anche superiori. Queste sono apparecchiature che non sarebbero permesse dalle norme europee ed effettivamente, come dire, possono, specie se usate vicino al corpo, così essere dannose. Ecco, dottor Passini, in conclusione, si tende sempre a concentrarsi sul cellulare, penso che sia anche giusto, visto che ormai è un compagno della nostra vita, ma a suo avviso quali sono, diciamo, gli oggetti o gli elementi anche della nostra vita quotidiana da tenere d'occhio? È veramente difficile a questo punto dirlo a priori, perché le apparecchiature che utilizzano onde radio di tipo radiato, oppure apparecchiature di quelle che trasmettono attraverso le linee elettriche in ambiente domestico di piccolo ufficio, stanno diventando veramente tante. E noi, proprio per arrivare a capire come evolverà questa situazione, abbiamo cominciato pochi mesi fa, sì, come in collaborazione con l'Università di Trieste, un progetto di ricerca in cui andremo proprio a realizzare delle ambientazioni tipo con le apparecchiature, diciamo, che avremo nelle case nei prossimi 10 anni, diciamo, lì faremo una serie intensiva di misure proprio per andare a scoprire quali sono o quali possono essere le cause di maggiore inquinamento elettromagnetico e maggiore assorbimento da parte delle persone che stanno negli ambienti. Diciamo che comunque da parte di chi scrive gli standard di comunicazione, gli standard, no, quando noi parliamo del GSM o dell'UMTS o del Wi-Fi, sono dei sistemi che si normalizzano secondo degli standard che sono stati studiati da persone esperte che oggi sono abbastanza sensibili a questi fattori, sono fattori importanti. Perciò, come dire, a monte l'attenzione per queste cose c'è anche sotto forma di normative europee sull'argomento. Io torno a dire, è importante però che poi ci siano i controlli sul mercato, che non arrivino nei nostri negozi prodotti non conformi agli standard e magari in qualche caso più dannosi. Siamo ormai alla conclusione, non mi resta che ricordarvi radio24.it per sentire le trasmissioni di Radio 24, ringraziare Peter Bescapè oggi in regia, augurarvi un ottimo fine settimana.